gioco dura troppo poco, chissà quando ritornerà questa felicità. Dura un istante, poi ritorniamo sempre noi. Le fasce stanche. La, la, la, la, la. Jingle, jangle, jingle, jingle, jangle, jingle, jangle, jingle. Sei bello, cavallo, sto cammello. Quanto si bello.